Perfetto Giorno di Simone Spezia. Ballottaggi, disfatta del centro-sinistra, centrodestra che vince unito, modello delle comunali a livello nazionale, dice Salvini. Banca Gentiloni, dire che è un regalo è cattiva propaganda, il conto per lo Stato potrebbe arrivare a 17 miliardi. Siccità, Roma valuterà la chiusura delle fontanelle, respira un po' il nord dopo le piogge delle scorse ore, sud in grande difficoltà. Donnarumma e Milan, questione riaperta nella telenovela, ci incontreremo con la società dopo l'europeo, dice il procuratore Raiola. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è anche la nostra pagina Facebook, così come la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta video. Se volete potete commentare e scriverci anche là. In apertura, prima di tutto, una notizia appena battuta dalle agenzie e che riguarda la Gran Bretagna. C'era molta attesa perché doveva arrivare l'accordo tra i nazionalisti irlandesi e Theresa May per la formazione di un nuovo governo. Ebbene, questo accordo è arrivato, i dettagli ve li daremo tra poco collegandoci con Londra. In apertura però parliamo della politica italiana, perché i ballottaggi per le amministrative portano il segno del centrodestra che vince in molte città in precedenza o storicamente amministrate dal centrosinistra. Qualche appunto che abbiamo appreso: il caso di Genova, dove vince Marco Bucci contro il candidato di centrosinistra Gianni Crivello, di Piacenza, dove trionfa Patrizia Barbieri col 58%, di Monza, dove vince Dario Allevi dopo l'amministrazione di centrosinistra di Scanagatti, della ex Stalingrado d'Italia, così viene definita, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove il primo cittadino sarà il forzista Di Stefano, di Pistoia, dove Alessandro Tomasi, di Fratelli d'Italia, conquista una città che è stata amministrata per oltre 60 anni dal centro-sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle conquista Carrara. Una sconfitta dunque piuttosto netta per il Partito Democratico ed evidentemente anche per Matteo Renzi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, il trionfo del centrodestra e ballottaggio delle comunali è innegabile, piazza i suoi candidati in 16 città guadagnandone 9 rispetto alle 7 precedenti, il centrosinistra riesce invece a vincere solo in 6 comuni capoluogo, in precedenza ne aveva 17, cadono roccaforti rossi come hai detto tu, come Genova e Pistoia, ma anche L'Aquila, Monza, Piacenza, La Spezia, Alessandria, Asti, Pistoia, l'abbiamo già detto, Como, Rieti, Lodi e Oristano. Il centro sinistra invece è riuscito a imporsi a Padova e Lecce, tenere Palermo, Taranto, Lucca e Cuneo. A Parma si conferma Pizzarotti e dice Grillo si sta mangiando le mani. Il vero sconfitto però è Matteo Renzi, il segretario PD, che finisce sotto assedio, ma lui nega la sconfitta, parla di risultato a macchia di leopardo e pubblica un grafico in cui somma tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti in cui il centro-sinistra vince sul centro-destra. Quindi secondo Matteo Renzi il centro-sinistra avrebbe vinto 67-59. Le facili ironie del web non mancano, secondo il Movimento 5 Stelle per lui è una clamorosa sberla, i Dem ne escono con le ossa rotte, Matteo Salvini della Lega e il centrodestra invece pensano alle politiche, Salvini dice adesso basta con i voti che salvano il governo. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento, ma sentiamo l'opinione di Giovanni Toti, il cui modello di alleanza con la Lega, presidente della regione Liguria come sapete, il cui modello di alleanza con la Lega sembra funzionare, è intervenuto oggi a 24 mattina, ospite dunque di Alessandro Milan e Oscar Giannino, sentiamolo. Il successo delle coalizioni di centrodestra ha riportato in campo un giocatore che da un po' di tempo era un po' timido e si era ridotta la politica italiana a un derby Renzi-Grillo che è durato quasi 2 anni. Ma Berlusconi lo vuole il centrodestra unito, cioè vuole stare con Salvini? Io l'ho sentito questa notte e mi sembrava molto contento dei risultati elettorali e molto anche deciso al fatto che c'è bisogno di mettere in piedi una coalizione e lavorarci, tornare a lavorare alacremente ai programmi, ai moduli e a quant'altro. Ora, non è stata una lunga telefonata programmatica, è stata una telefonata di congratulazioni reciproche e di brevi considerazioni su quel che stava accadendo, però non l'ho trovato ostile. E questo è il quadro dei ballottaggi sui quali torneremo più avanti per raccontarvi due vicende: quella di Lodi, dove ha vinto la candidata sindaco della Lega Sara Casanova, battendo in casa, per così dire, il vice segretario del Partito Democratico Guerini, che come sapete è stato sindaco di Lodi, e quindi qua anche una sconfitta del centro-sinistra piuttosto forte. E poi il caso di Trapani, dove si va al commissariamento perché c'era solamente un candidato, è andato alle urne circa un quarto degli elettori. Su questo torneremo più avanti. Intanto andiamo alla questione delle banche venete, della loro liquidazione. Mentre arrivano in questo momento delle dichiarazioni che riguardano invece il Monte dei Paschi di Siena, il vice direttore generale della Banca d'Italia Fabio Panetta al briefing sull'operazione delle banche venete chiarisce che l'operazione di ricapitalizzazione di MPS è chiusa e manca solo il consenso formale della Commissione Europea. Ovviamente l'attenzione si concentra proprio appunto sulle banche venete, un'operazione che potrebbe costare allo Stato fino a 17 miliardi, quella della liquidazione appunto di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, anche se persino su questa cifra c'è una discreta incertezza. Marco Fernando del Sole 24 Ore, buongiorno, è così, no? Sì, è così, c'è una certa incertezza perché ieri il ministro Padoan se l'è cavata dicendo, giustamente, perché i termini della questione sono questi, che al momento lo Stato paga 5 miliardi e qualcosina in più, il resto si vedrà, nel senso che il conto finale di questa operazione di salvataggio dipenderà essenzialmente da quanto verrà recuperato dai 20 miliardi di crediti deteriorati che fanno capo alle due banche e che rimarranno allo Stato, che le gestirà attraverso la SGA, la vecchia Bad Bank del Banco di Napoli. Tanto più riuscirà a recuperare, tanto meno salirà il conto dello Stato o addirittura potrebbe ridursi. Tra l'altro, da notare che proprio stamattina la Commissione Europea, che vigila sui conti pubblici, in particolare sul debito, ha detto che al momento i termini sono ancora troppo imprecisi, troppo sommari per poter valutare gli impatti sui saldi di finanza pubblica, quindi una conferma essenzialmente del fatto che i conti si potranno fare solo più avanti. I conti si potranno fare più avanti per quanto riguarda le banche venete. Per quanto riguarda quello che sappiamo adesso, Marco, a pagare saranno essenzialmente gli obbligazionisti subordinati, gli azionisti, come era già previsto e prevedibile, no? Sì, assolutamente. Gli azionisti, parliamo delle migliaia di piccoli azionisti che peraltro avevano già perso quasi interamente il valore del loro investimento con le svalutazioni degli ultimi mesi, di fatto saranno azzerati, anche se buona parte di loro aveva negoziato un rimborso nei mesi scorsi, quindi rimborsi peraltro già liquidati. Lì ovviamente perde Atlante, che aveva investito 3 miliardi e mezzo, che sono azzerati, quindi perdono le banche che in Atlante ci avevano investito, banche, fondazioni e assicurazioni, e perdono gli obbligazionisti subordinati. Anche se va detto che per i risparmiatori, quindi gli obbligazionisti retail che avevano comprato prima del 14 giugno 2014, e questa è la data dell'ultima emissione effettuata da una delle due banche, quindi vuol dire che tutti gli obbligazionisti subordinati che avevano comprato direttamente dalla banca saranno rimborsati, l'80% dallo Stato e il 20% delle intese. Invece gli altri, quindi gli investitori istituzionali o chi tra i risparmiatori ha comprato sul secondario, di fatto cercando probabilmente anche un po' di speculazione, sarà azzerato. Io ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, che tra l'altro stiamo sottoponendo in queste ore ad un super lavoro, come sapete è stato ospite anche di Cuore e Denari questa mattina. Se volete potete andare a scaricare il podcast, dove insomma c'è anche un po' più di spazio e qualche dettaglio maggiore soprattutto per i risparmiatori. E poi c'è il fronte politico, questa mattina ha parlato il Presidente del Consiglio Gentiloni. Giorgio Stamatopoulos, buongiorno. Buongiorno, sì, buongiorno a tutti, buongiorno Simone. Il Presidente del Consiglio Gentiloni alla prima occasione pubblica ha difeso la scelta di seguire la strada di una liquidazione in base alle procedure nazionali anziché una risoluzione europea. Come sapete, insomma, stiamo parlando ancora una volta del salvataggio delle banche venete. Io direi, se è possibile, di ascoltare subito un breve passaggio del suo intervento questa mattina. Mi auguro che la gestione dei crediti deteriorati, ai quali sono destinati in larghissima parte questi 5 miliardi, consenta di recuperarli in tutto o in parte nei prossimi anni. Credo che sia non solo legittimo, ma doveroso per un governo serio farsi carico di problemi che possono intervenire nelle nostre imprese e nelle nostre banche. Il Presidente del Consiglio poi ha aggiunto che l'intervento del governo è indirizzato ai 2 milioni di clienti, alle circa 200.000 imprese medie e piccole che dal credito delle banche venete dipendono. Il messaggio è, ha detto Gentiloni, che lo Stato c'è e interviene per attenuare le crisi nel pieno rispetto delle regole europee. L'ambito in cui il Premier ha parlato ancora una volta di questa vicenda è stata la presentazione del piano Enel per l'installazione del nuovo contatore elettronico, 4 miliardi e 3 di investimento in 15 anni per ammodernare l'intera rete nazionale. Per il momento è tutto da Roma. Grazie Giorgio Stamatopoulos per questo aggiornamento. Adesso, come promesso in apertura, ci spostiamo a Londra, dove stanno iniziando a fluire i dettagli sull'accordo raggiunto da Theresa May per la formazione di un nuovo governo. Vediamo di fare un breve punto con Giorgia Scaturro in diretta a Londra. Giorgia, eccoci, buongiorno. Buongiorno. Ebbene, dopo due settimane col fiato sospeso, che hanno tenuto in bilico anche la regina Elisabetta, poco fa è stata lei, Arlene Foster, leader del Partito Unionista Democratico dell'Irlanda del Nord, a uscire dal 10 di Downing Street per dare la notizia dell'accordo di coalizione raggiunto con il governo conservatore di Theresa May, che ricordiamo non aveva ottenuto la maggioranza parlamentare alle recenti elezioni. Ebbene, in cambio della cosiddetta confidence and supply, fiducia senza rappresentanza, la Foster si è portata a casa 1 miliardo di sterline da investire in infrastrutture, sanità e istruzione in Irlanda del Nord nei prossimi 2 anni. I conservatori britannici e gli ultraconservatori nordirlandesi stabiliranno un comitato di coordinamento per l'implementazione di questo accordo, che fino all'ultimo è stato incerto e sicuramente molto fragile. Di fatto le 3 pagine di documento siglato oggi sono vitali a Theresa May, a corto di 9 voti in Parlamento in vista del voto di fiducia per il suo programma di governo biennale, che avverrà giovedì prossimo e che, ricordiamo, è incentrato prevalentemente sulla Brexit. Il primo ministro conservatore Theresa May ha detto che questa è la certezza che serviva al Regno Unito per andare avanti con le negoziazioni. E per il momento vi restituisco la linea. Grazie dunque a Giorgia Scaturro per questo aggiornamento. Noi rimaniamo all'estero per parlare delle 2 battaglie tra Siria ed Iraq. Sempre più pericolosamente vicine le coalizioni armate guidate da Stati Uniti e Russia in territorio siriano. La guerra all'ISIS in ritirata da Mosul punta su Raqqa e ormai soprattutto sul deserto siriano, che si apre a 360 gradi sui paesi della regione e spinge dunque americani, russi e iraniani a muovere con i propri alleati locali lungo e dentro i confini con Iraq e Giordania. Nelle prossime settimane, mentre tramonta la fortuna militare del califfato, si andranno disegnando le zone di controllo che preludono alla spartizione della regione. Secondo fonti israeliane, per la prima volta in 2 anni di operazioni in Siria, Mosca ha aperto una nuova base a est di Palmira, mentre le forze speciali di Washington hanno creato un punto avanzato nel deserto ad El Tanf. Sono 180 appena i chilometri ormai tra le 2 posizioni. Dalla base russa di Kirbey Tras, Mosca estende anche la capacità operativa sul sud-est del paese e si trova a meno di 100 chilometri dal Golan. Anche oggi Israele ha spiegato di avere risposto con l'artiglieria ai colpi di mortaio sparati dai soldati di Damasco nel corso del loro attacco alle forze ribelli, che da 2 anni resistono al tentativo governativo di riprendere il controllo dei confini. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, ma andiamo in Cina. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010. Quello che sentite è un annuncio che risale al 2010, è l'anno nel quale il Nobel per la pace è stato assegnato a Liu Xiaobo. Xiaobo in carcere dal 2009, è stato rilasciato oggi per motivi di salute, visto che ha un tumore terminale. Fu condannato nel 2009 a 11 anni di prigione per aver lanciato il documento Carta 08, che in Cina chiedeva la democratizzazione del sistema politico del paese. L'assegnazione del premio, lo ricorderete, aveva suscitato una forte protesta di Pechino, che aveva congelato le relazioni diplomatiche con la Norvegia. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade e poi passare a parlare tanto di siccità quanto di ballottaggi, beh, c'è la telenovela Donnarumma, che si arricchisce di nuovi capitoli digitali, presunti hackeraggi, Raiola che twitta e forse il portiere Dario Ricci che potrebbe rimanere al Milan, ma chissà. Eh sì, diciamo una social novela, insomma, poi noi che adesso siamo anche in diretta Facebook, spiego anche che ho la maglietta del Velez Mostar, ecco, quindi almeno... facciamo sì. anche un po' di cultura in questo modo, con le magliette che, calcistica in questo modo, ormai siamo sbarcati anche in video. Beh sì, è una social novela, caro Simone, basta ripercorrere la giornata di ieri. Prima c'è il tweet di Gigi di Donnarumma che professa amore incondizionato per Mino Raiola, ieri, oggi e domani con Mino Raiola, via Twitter, e quindi un tweet che già mette in subbuglio il popolo rossonero perché sembra un'ulteriore frattura con il Milan. Poi, sempre sul profilo Instagram del portiere, arriva una professione d'amore invece per i rossoneri, Donnarumma che dice dopo gli europei dell'Under 21, domani semifinale importantissima contro la Spagna, mi incontrerò col Milan che amo, perché amo anche i suoi tifosi, mi incontrerò con la società e con Mino e tutti quanti per il rinnovo, quindi il disgelo, questo intorno poco prima delle 22. Poi un classico, mi hanno hackerato il profilo. Mi hanno hackerato il profilo. Passa mezz'ora e lo stesso Donnarumma dice: no, è una dichiarazione dell'hacker. È un hacker che ha hackerato il mio profilo mettendo questa dichiarazione. Quindi chiudo il mio profilo Instagram, ma rimane aperto quello Twitter. La cosa paradossale è che oggi, sempre via Twitter, parla Raiola e di fatto conferma la versione dell'hacker, cioè adesso ci sono gli europei ma poi ci incontreremo con il Milan per il rinnovo. Ora quindi diciamo l'hacker è meglio dell'originale perché c'ha le idee più chiare di Donnarumma, evidentemente sì per cui aveva beccato pure la versione giusta, quindi insomma diciamo escludiamo il fatto che ci sia stato questo hackeraggio, direi, anche se il profilo Instagram di Donnarumma risulta al momento chiuso. Sicuramente le parti si rivedranno, molto probabilmente si arriverà a un accordo. Non è detto che voglia dire per forza che poi Donnarumma quest'anno rimanga al Milan, perché da qui alla fine del mercato magari il Real Madrid fa l'offertona e al Milan i soldi servono. Intanto grazie al nostro Dario Ricci, vedremo come evolverà anche questa vicenda. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo e inizieremo parlando di siccità e concentrandoci oggi sul Lazio. Vi abbiamo raccontato nei titoli, Roma sta pensando di chiudere i nasoni, insomma sono quelle le fontanelle, mitiche fontanelle di Roma per chi le conosce. A tra poco. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp e la nostra diretta video sulla pagina Facebook. Torneremo a parlare di ballottaggi tra poco. Nel frattempo Grillo dice che ad ogni elezione il Movimento 5 Stelle cresce e il governo del paese è vicino. Ora noi iniziamo il nostro giro per l'Italia parlando di siccità. Ora io non so, come ci scrive un ascoltatore che probabilmente è un tecnico, quindi non lo so effettivamente se la proposta di chiudere i nasoni, ossia le fontanelle di Roma, arrivata tra l'altro dal ministro Galletti, possa essere un problema, perché ci scrive l'ascoltatore: il ministro lo sa che i nasoni aiutano a regolare la pressione delle condutture e a mantenere le fogne pulite. Non so se sia vero, però se fosse vero è un aspetto interessante, magari si qualifichi, ci dica, è un ingegnere idraulico e quindi ce lo dice perché lo sa, non lo sappiamo. Fabio Refrigeri, buongiorno e benvenuto, assessore alle infrastrutture della Regione Lazio, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti voi. Allora, come vanno le cose? Ma diciamo che affrontiamo questa fase con alcune preoccupazioni, alcune criticità, ma tendenzialmente stiamo tentando di regolare un po' le iniziative su un tema così delicato, differenziando acqua ad uso potabile e i problemi che si hanno in agricoltura. Domani convocheremo tutti i gestori dei servizi idrici, dei segreti degli ambiti e i consorzi di bonifica. Fare una puntualizzazione, capire le esigenze, quali meccanismi mettere in essere al fine di affrontare questa fase. E ascolti, il lago di Bracciano come è messo? Allora, i problemi vanno affrontati. L'idea di quello che stiamo facendo e che faremo domani, abbiamo fatto in questi giorni, è questo: non si può affrontare ogni pezzo a sé stante, il bilancio idrico della regione è unico. Quindi Bracciano è una delle riserve che utilizza Ato 2. Noi abbiamo concesso, per esempio, un utilizzo di 190 litri al secondo in più di captazione per questi due mesi, da qui a settembre, dalla sorgente del Pertuso, della Valle dell'Aniene. Domani ci attendiamo che si faccia un conto anche del bilancio idrico, capire con questi 190 litri cosa andiamo a stabilizzare, quindi andiamo a preservare, spero, il lago di Bracciano, perché è chiaro che non dobbiamo, per risolvere un problema, aprirne altri due. Poi vedere anche se il paventato taglio che la Ato 2 aveva il 31 maggio a 56 comuni, tra cui alcuni del Reatino, alcuni della Sabina Romana, è scongiurato attraverso queste misure di ulteriore captazione. Ovviamente chiederemo cosa possono fare i gestori anche nell'ottica di un migliore utilizzo dell'acqua. E qui la polemica sui Nasone. È chiaro che servono a regolamentare la pressione e hanno una loro funzione. Dopodiché credo che quando la pressione non c'è sia complicato poi gestirla, quindi credo che delle misure straordinarie possano essere messe in campo. È solo un esempio per dire come dobbiamo fare di tutto al fine di gestire meglio una preziosa risorsa, anche magari con i piani di manutenzione che siano il più attenti possibile. Brevemente, Refrigeri, l'ultima domanda: ci sono ipotesi di razionamento dell'acqua per alcune aree della regione? Vedremo domani, noi abbiamo le regioni fanno un po' da coordinatore di questo. Abbiamo delle criticità, per esempio nella zona del Golfo di Gaeta, che stiamo affrontando caso per caso. Lì per esempio abbiamo un mese fa consegnato l'utilizzo di una sorgente nei pressi del comune di Prossè di 35 litri al secondo. Abbiamo messo in campo un'iniziativa importante 2 anni fa per la costruzione dei dissalatori sulle isole, ma anche sulla parte della costa pontina. Noi abbiamo autorizzato tutto, vorremmo incalzare un po' anche i gestori a fare al meglio un compito anche col difficile come questo, ma cercare di limitare al minimo quelle che sono le sacche di sofferenza. Una volta individuate, siamo anche disposti a verificare cosa si può fare in maniera straordinaria per impedire disagi ulteriori ai cittadini. La ringrazio, grazie a Fabio Refrigeri, assessore alle infrastrutture della Regione Lazio. Ci scrivono sulla nostra pagina Facebook, dove siamo ancora in diretta, ci scrive Donatella: ieri sera all'Olimpico sotto l'obelisco l'acqua veniva su da un tombino che era una meraviglia. Perché poi c'è anche questo, noi continuiamo a raccontarci, no, del problema della siccità, dall'altra parte siamo in un paese nel quale la dispersione idrica è elevatissima e questo è un caso particolare, forse una rottura, però insomma dagli acquedotti si perde parecchio. Sara Casanova, buongiorno. Buongiorno. È il neo sindaco di Lodi, o sindaca, cosa preferisce lei? Neo sindaco di Lodi, certo, non è Genova, però Lodi è pur sempre la città del vice segretario del Partito Democratico, che ne è stato sindaco per tanti anni. Lei della Lega ha trionfato ieri e immagino sia soddisfatta, no? Direi di sì, non ho ancora ben realizzato. Comunque vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, i miei cittadini. Senta, che hanno creduto in me. Dovesse dare una lettura, per così dire, nazionale, non tanto del voto di Lodi, perché insomma, con tutto il rispetto, no, parliamo sempre di Lodi e non certamente di Roma o di Milano, però dovesse dare una lettura nazionale di quello che ha visto in questo voto, che cosa rappresenta? Io preferisco parlare per Lodi, ma credo che questo valga anche a livello nazionale. Credo che ci sia una voglia di cambiamento e questo è sentito dai cittadini. Ci sia più bisogno di ascoltare le persone quando si fa politica per dare risposte concrete ai cittadini. Questo è quello che vogliono. Sì. Secondo me ha prevalso questo, lei dice. Voglia proprio di cambiare. È mancato ascolto da parte dei suoi avversari politici. Guardi, in 21 anni a Lodi purtroppo secondo me è mancato questo. C'è stato proprio un muro da parte del centro-sinistra rispetto alla città. E questo era palpabile durante la campagna elettorale. Io credo che ascoltare le persone sia l'ABC per chi vuole fare politica e chi soprattutto vuole fare l'amministratore, e questo i cittadini col voto che hanno espresso ieri hanno premiato. La ringrazio, grazie Sara Casanova, neo sindaco di Lodi, in bocca al lupo per il suo lavoro, lo diciamo sempre ai sindaci che vengono appena eletti. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e se abbiamo spazio, perché poi lunedì è sempre una puntata un po' più corta e soprattutto se ci risponde al telefono, parliamo con il candidato del centrosinistra a Trapani che è stata commissariata, elezioni annullate per una vicenda è curiosa, ecco, perché il candidato del centrodestra si è sostanzialmente ritirato perché è sotto indagine evidentemente sperando proprio in questo, che la città fosse commissariata e che gli dessero tempo di risolvere i suoi problemi giudiziari per poi ripresentarsi e candidarsi. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e così come sulla pagina Facebook di Radio 24, in diretta video i nostri titoli: ballottaggi, disfatta del centrosinistra e centrodestra che vince unito, modello delle comunali a livello nazionale, dice Salvini. Sulle banche, Gentiloni, dire che un regalo è cattiva propaganda, il conto per lo Stato potrebbe arrivare a 17 miliardi. Siccità, respira un po' il nord dopo le piogge delle scorse ore, sud in grande difficoltà e, come avete sentito, problemi anche nel Lazio. Donnarumma e Milan, questione riaperta, ci incontreremo con la società dopo l'europeo, dice il procuratore. Raiola, la borsa. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Sì, a proposito di amministrative, mi ricordate giustamente che non abbiamo citato i due casi veneti. Di certo non è che possiamo mettere tutto nei ballottaggi, però è vero che è da sottolineare la sconfitta di Bitonci della Lega a Padova, dove diventa sindaco per il centrosinistra Sergio Giordani, e c'è da citare sicuramente anche la vicenda veronese, dove Patrizia Bisinella perde e sonoramente contro Federico Sboarina. Questo il quadro per quanto riguarda i comuni veneti, mentre invece noi ci spostiamo in Sicilia, dove c'è la vicenda trapanese che senza dubbio fa rumore. Che cosa succede a Trapani? In parte ve lo avevamo raccontato, già era un'elezione anomala perché c'erano due candidati con un po' di problemi giudiziari. Dopodiché al ballottaggio sono andati uno senza problemi giudiziari e uno con problemi giudiziari, Fazio, che era già stato sindaco lungamente. Dopodiché Fazio decide di non presentare, Mimmo Fazio decide di non presentare la lista degli assessori, di fatto autoescludendosi dal ballottaggio. Morale: vanno a votare a Trapani, va a votare a Trapani un quarto degli elettori, città commissariata, discreta delusione per Piero Savona, che era il candidato sindaco del Partito Democratico e che è in linea con noi. Buongiorno Savona, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Mi sembra di aver capito che quel che sospettate voi è che Fazio abbia fatto questa mossa appositamente per far fallire l'elezione e potersi ripresentare successivamente. Ho capito bene? Ma credo che questo sia ormai evidente, ma anche per risolvere i suoi problemi giudiziari che lo vedevano impegnato contemporaneamente in campagna elettorale. E quindi è stata una risoluzione fatta con riferimento a una legge regionale, che solamente in Sicilia ha questa legge, che prevede, in caso di ritiro di uno dei contendenti, si chiede un quorum pari al 50% degli aventi diritto, quindi non degli elettori ma degli aventi diritto. A Trapani ci sono 60.000 elettori, quindi io avrei dovuto prendere 30.000 voti di preferenza. Quindi questa è una cosa assurda, che è tra l'altro la legge che poi successivamente in contrapposizione alle leggi successive della regione, per cui ci sembra un assurdo giuridico. Sì, quindi mi sembra di capire, il ragionamento del suo avversario è stato questo: allora intanto facciamo commissariare il comune, sì. poi risolvo spero di risolvere i miei problemi giudiziari, dopodiché fra un anno provo a ricandidarmi. Però Fazio nega tutto questo, o no? Ma non lo so, questo bisognerebbe chiederlo. Evidentemente i fatti vanno in questa direzione. Se lui avesse avuto un'idea diversa, a cuore gli interessi della città, si sarebbe ritirato subito, dando la possibilità di fare comunque un ballottaggio con uno degli altri tre candidati che erano dopo di me. E quindi presumo che questa sua considerazione all'ultimo minuto proprio sia stata frutto di un calcolo di bottega e non di altro. Anche Beppe Grillo si è schierato a favore dell'astensione in questo voto. Questa è una cosa brutta per i fatti che si sono verificati a Trapani, che Beppe Grillo abbia assunto la stessa posizione del senatore D'Alì, che è uno dei candidati che ha avuto problemi giudiziari proprio in piena campagna elettorale. È un altro aspetto tutto da interpretare, perché dico, se 5 Stelle poi per anche per lo stesso ragionamento probabilmente vi ha fatto Fazio, abbiamo perso questa volta e ci ripresentiamo più forti l'anno prossimo nella speranza di vincere, ma dico, a questo punto credo che gli interessi della città non li abbia guardati nessuno. E ascolta una cosa, si vota l'anno prossimo quindi? Sì, perché in Sicilia c'è una legge che prevede l'unico turno di votazione in primavera, quindi si potrebbe votare da aprile a giugno del 2018, fra un anno. Quindi fra un anno un commissario che nel frattempo dovrà assumere i poteri del sindaco, della giunta e anche del consiglio, perché pare che neanche il consiglio si potrà insediare in quanto non è previsto l'insediamento senza il sindaco. Lei si ricandida, Savona? Sì, sì. Ma intanto devo comprendere esattamente quello che sta succedendo in questi giorni. Dico, non penso che sia il problema. Noi abbiamo cercato di dare un messaggio alternativo a una città che è stata governata per 20 anni da un centrodestra che oggi, oltre ad aver disamministrato questa città con tutti i problemi che ci sono, è evidente che non c'è stata una buona amministrazione, ma dico, sono impegnati in problemi giudiziari. Probabilmente un'alternativa valida deve affrontare soprattutto in questa città la questione morale, e credo che questo sia un dato di partenza per chiunque voglia misurarsi al prossimo anno. Spero non solamente nell'ambito del centro-sinistra, ma spero che questa condivisione minima di proposizione sia sposata anche dal centrodestra, cioè non ci si può presentare con candidati che abbiano avuto seri problemi con la giustizia o che li abbiano in corso. Su questo credo che sia una richiesta minima che ogni cittadino dovrebbe pretendere ai propri rappresentanti. La ringrazio, grazie Piero Savona, candidato sindaco del Partito Democratico, ex candidato sindaco del Partito Democratico a Trapani. Ci chiedete di Igor perché è lunedì, non ci siamo occupati di Igor il serbo, Igor il russo. Guardate, facciamo così, vi do la notizia. Allora, a Budrio, che è il paese nel quale, come sapete, Igor il russo, Igor il serbo ha ucciso un barista durante una rapina, il sindaco Giulio Pierini del Partito Democratico ha perso il ballottaggio con lo sfidante Maurizio Mazzanti ed è il primo sindaco di centrosinistra dal dopoguerra, il primo candidato sindaco centrosinistra dal dopoguerra, anche là, che non vince alle elezioni a Budrio. Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.